Grazie, grazie dottor Alfieri, a presto. Grazie a voi e buongiorno. Grazie anche a Paolo, che non stiamo salutando da qualche mai, giorno. Mai, neanche Marco Lombardo, Laura Vanossi, è vero. Ciao. Ci ho pensato ieri, a domani.